Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Benvenuti e benvenute a Mebius. Ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Puntata cruciale, andiamo ai titoli. Finalmente affrontato da Mebius, ne siamo orgogliosi, un grande problema sociale. Ma ve lo diciamo dopo. Poi parleremo di caos e di caso. E poi furti d'auto, ma con un obiettivo particolare, e cioè clonare le carte di credito. E poi parleremo di sanguisughe e robotica. O anche di sanguisughe e robotica, in un certo senso. Via! Oh Simona, troppo a lungo, per troppo tempo abbiamo tollerato questo grave problema, sei d'accordo? Diciamo che è un problema forse sottovalutato, ma che ha assillato tutti, assillato soprattutto le nostre orecchie. Allora sentite il promo di questo concorso risolutivo che lancia Mebius. Un ultimo fondamentale passo per l'umanità. Dopo l'avvento dell'anestesia, della luce elettrica e del vaccino antipolio, resta un'ultima sfida da vincere. Eliminare il frastuono del macinacaffè nei bar. Mebius, la trasmissione di scienza di Radio 24, presenta il primo Reduction of Noise Award, la prima edizione del premio per la riduzione del rumore. Inventori, inventrici, avete tempo fino al 30 giugno per tirare fuori le vostre idee più vincenti. Tutte le info alla pagina di Mebius su radio24.it. Oh, mi pare che sia chiaro, insomma, c'è qualcosa di più infernale quando siamo in un bar di questa tremenda macchinetta macina caffè, che poi cosa, ogni 10-15 minuti in un paese dove si prende un sacco di caffè spara per 3 minuti. Insomma, un rumore che disturba le conversazioni, impedisce di fare le telefonate. E mi chiedo, come saranno a fine giornata lavorativa le persone che lavorano dietro il bancone di un bar? Anni, anni, anni con questo rumoraccio schifoso, anzi possiamo sentirlo, ricordarlo, questa roba qui, pazzesca. Allora, in un bar ci sono ormai i bar sono diventati accoglienti, quindi magari ci sono un sacco di studenti che lì vogliono studiare, prendono appunti, c'è il wifi, niente, via, questa macchina pazzesca. E poi ci sono anche, per esempio, le coppie che vanno lì, hanno dei problemi affettivi. A te è successo di andare in un bar? No. No, al bar ci vado, problemi affettivi non ho, però concordo che l'inquinamento acustico ti distrugge in un momento in cui stai affrontando un tema. E allora noi proponiamo una soluzione, anzi andiamo a caccia di una soluzione. Inventori, inventrici, partecipate a questo concorso, andate al nostro blog e troverete le regole, insomma un breve testo che vi dice come partecipare, ma chi inventa la macchina silenziosa, gliela realizzeremo. Vi aspettiamo quindi sul blog di Mebius, sul sito di Radio 24. E ad appoggiarci in questo concorso pazzo abbiamo trovato un'azienda pazza, la Faber, che fa le cappe da cucina del 3000, pazzesche. Insomma, liberiamoci dal caos, ma di caos si parlerà il 19 marzo alle 11 a Roma, di caos e dei misteri del caso con Stefano Marmi e Marco Malvaldi nell'ambito dei dialoghi matematici organizzati dalla casa editrice Il Mulino in collaborazione con Fondazione Musica per Roma. Stefano Marmi, buonasera e benvenuto a Mebius. Buonasera. Lei è autore di un libro che si chiama Caos, edito dal Mulino, che organizza tutti questi appuntamenti. Allora, la speranza sarebbe che lei ci desse qualche equazione per risolvere la situazione generale del paese, che è effettivamente caotica, ma non credo che questo sì. sia no, no, questo equazionabile. Non ce la posso fare. Non ce la può fare. Allora, no, però... No. Il tema mi sembra molto interessante, cioè si ha la sensazione che più diffusa che la matematica dovrebbe essere qualcosa che risolve, cioè porta a linearità quelle cose caotiche, mentre invece c'è una grande utilità di ragionare restando dentro il caos. Sì, assolutamente, è utile ed è anche indispensabile, perché in qualche misura la scoperta della matematica è che il caos è ubiquo ed è quindi una necessità parlarne, comprenderlo e capire quali sono le domande giuste che ci si può porre in presenza. scommessa di caos. Ci faccia qualche esempio. Allora, dunque, l'ambito delle scommesse è tradizionalmente un ambito più della probabilità che non del caos, sì. Perché si sta parlando di quei sistemi che in qualche maniera noi non controlliamo in nessun modo, benché se uno ci pensa il lancio di un dado e anche, non so, la pallina in un flipper siano comunque sistemi meccanici, quindi diciamo esatto. Ci possono essere dei comportamenti che sembrano casuali ma che hanno comunque un'origine che nasce dalle leggi della meccanica che non sono della meccanica classica, che non sono casuali. Certo. Altrimenti in natura diciamo i due paradigma diciamo di caos che tutti noi sperimentiamo, magari in Italia siamo fortunati ma gli irlandesi, gli inglesi lo sanno bene, è il tempo meteorologico. Cioè è sicuramente un sistema nel quale la previsione è, malgrado gli enormi progressi che sono stati fatti dal punto di vista computazionale, ha dei limiti intrinseci che sono proprio dettati diciamo dalla caoticità dei flussi atmosferici. Ci sono poi diciamo altri esempi che possono essere più sorprendenti, perché diciamo si va in un dominio in cui il caos non era atteso, come può essere la meccanica celeste, addirittura il movimento dei pianeti del sistema solare. Cioè è un sistema, quello planetario, proprio del nostro sistema solare, poi ora la cosa si sviluppa perché i sistemi solari sono diventati più numerosi, ne sono stati scoperti anche intorno ad altre stelle, ma l'analisi fondamentale è stata fatta sul nostro, e lì c'è una coesistenza di moti ordinati, e questo riguarda diciamo i pianeti più grandi, Giove, Saturno, eccetera, con moti invece che hanno una qualche livello di caoticità, naturalmente caoticità che si svolge sulla scala umana a rallentatore, cioè nel senso noi non è una caoticità che ci va immediatamente a influenzare nella nostra vita e nemmeno nel corso della nostra storia, ma che ci va a influenzare quando noi cerchiamo di capire cosa accadrà, che ne so, a Mercurio tra un miliardo di anni. E poi, per esempio, per quello che ne so io, ci sono studi basati sul caos anche per quanto riguarda la fluidodinamica, so che sono stati applicati per esempio alle vele delle barche, certo, da Coppa America. Ma perché poi appunto lì si entra in un dominio molto complesso, perché qui a differenza degli esempi, dell'esempio per esempio del sistema solare, si parla di equazioni che richiedono un trattamento con le leggi del continuo e non più soltanto equazioni che richiedono un trattamento più semplice come si fa per i pianeti, in cui per gli scopi che stavamo descrivendo i pianeti vengono modellizzati come se fossero dei punti, quindi diciamo ci sono molte meno equazioni da risolvere di quello che non succeda nel caso delle vele, benché paradossalmente sembrino problemi più semplici, più semplici e invece di altri. No, non sono così. Invece non è così, esatto. Allora, Stefano Marmi, Caos, edito dal Mulino, ma anche appuntamento domenica a Roma il 19, domenica 19 all'Auditorium, dentro una serie di appuntamenti. Grazie Marmi e buon lavoro. Grazie mille. Stefano Marmi, matematico, docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Come sarà il caos nel traffico? Andiamo a sentire. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque Simona, io ho visto la foto di un cruscotto di una macchina completamente devastato, non c'era nemmeno più il volante. Era avvenuto un furto, ma di che cosa? Non possiamo dire il modello della macchina perché sarebbe scorretto, ma questo grande massacro di un cruscotto si è ripetuto parecchio. C'è qualcuno che va alla caccia di qualcosa di specifico che c'è dentro questo cruscotto. Sì, l'interesse a quanto pare dei ladri di turno non è l'automobile, non è l'autoradio, non è il navigatore, ma un microchip. Ne parliamo con Lorenzo Laurato, amministratore delegato della SRI, Sicurezza dei Sistemi e Reti Informatiche. Buonasera. Buonasera Laurato. Buonasera a voi. La sua azienda lavora a stretto contatto con gli inquirenti, i tribunali, indagini varie. Che cosa diavolo c'era dentro questo cruscotto di una macchina particolare? In realtà è da un po' di tempo, è già qualche anno, che ci sono una serie di attività svolte su macchine particolari dove, come dicevate voi inizialmente, vengono sventrate letteralmente, cannibalizzate, nel senso che viene sventrato il cruscotto e tirato fuori il navigatore satellitare piuttosto che soltanto la radio, perché all'interno di, sulla scheda c'è un microchip che ha capacità di elaborazione molto elevate ed è utilissimo per poter ricostruire i codici delle carte di credito. Però ci aiuti a capire in che modo poi questo piccolo circuito elettronico è utile e quindi viene utilizzato per clonare bancomat e carte di credito? Perché hanno una capacità di elaborazione del calcolo che serve per clonare più carte di credito in modo più veloce. Cioè la sua caratteristica è la velocità di funzionamento. La velocità di elaborazione in quel campo particolare delle carte di credito. Si tratta di un chip che non è presente in tutte le automobili, no? Come dicevamo all'inizio. Per quello che sappiamo noi, in un modello, forse in due, ma come può essere però che questi ladri, questi furti, insomma, vadano sparati su un certo modello di automobile perché sanno di trovare dentro il circuito che ha quelle capacità super veloce. Esatto, super veloce. Come può essere che arrivi, che ci sia questa precisione? Allora, tecnicamente la domanda più la risposta più semplice alla domanda è che chiaramente c'è stata una fuga di notizie. C'è sicuramente una perdita del controllo dell'informazione e l'informazione è fuoriuscita ed è arrivato a chi ovviamente organizza e gestisce il movimento criminale e ha saputo che quella macchina, quel tipo di navigatore, di satellitare probabilmente ha il chip di interesse. Quindi è molto probabile che ci sia una fuga di notizie. Fuga di notizie che arriva ad abili utilizzatori, insomma. Quindi Lorenzo Laurato, non ci può essere un altro percorso. Qui è qualcuno che ha le informazioni precise all'origine e va a colpo sicuro. Assolutamente sì, non può essere dettato da una casualità, ma è chiaro che c'è un obiettivo ben preciso perché loro hanno informazioni ben precise e quindi vanno a recuperare quello che sanno già che funziona. Grazie Laurato, buon lavoro. Buonasera. Grazie a lei. Arrivederci. Dicevano ai titoli, Simona, sanguisughe e robot possono avere un rapporto. Sì, sta nella mollezza, ma non sta in generale. Al centro Enrico Piaggio, Danilo De Rossi, grosso ricercatore, ingegnere del centro, lo ha anche diretto, è il portatore di un paradigma che al centro sulla robotica è di fondo. La robotica soft. La robotica soft, la robotica che ha bisogno di corpi molli se vogliamo fare dei grandi passi in avanti. E naturalmente si può incominciare, come si fa sempre nella scienza, magari dalle cose che possono sembrare, possono dare meno problemi inizialmente. Danilo De Rossi con il suo team sta lavorando sulle sanguisughe. E sentiamo allora cosa sta facendo. Se io devo fare delle macchine, chiamiamole in senso lato, macchine diverse, nuove, beh, intanto cambio tutto. Prima di tutto io non lavoro più con viti, bulloni, motori, non vanno bene. Non potranno mai andare bene, ma non tanto per motivi proprio ingegneristi, sono proprio sbagliati. Allora adesso mi metto a lavorare io con sistemi soffici, sistemi in cui, ecco qui è una parola, l'intelligenza è nel materiale. Che cosa vuol dire l'intelligenza nel materiale? Ma se io do un pizzicotto così alla mia guancia, fa un certo effetto. Se io faccio, come ho fatto, il volto di questa robot e lo faccio sempre più vicino come proprietà morfologiche, non biologiche, come proprietà meccaniche, mi ci vuole un software che non esiste per avere lo stesso comportamento della mia guancia. E quello di fare di silicone opportunamente lo fa. Cosa interessante adesso è che questa specie di sanguisuga di cui stiamo costruendo i pezzi, ora sanguisuga è deviante perché in effetti è la mazza zanzare. La mazza zanzare, non si può ammazzare le zanzare quando sono già adulte perché non c'è verso. Dobbiamo andare alle larve. Allora ho studiato i punti deboli, no, ho cercato, studiosi sono altri. e abbiamo trovato tre o quattro punti, abbiamo, perché sono tre ragazzi che lavorano con me su questo, dei punti deboli, soprattutto la zanzara tigre. E allora ci stiamo lavorando. Allora, cosa intende per punti deboli? La zanzara tigre ha dei punti deboli. Prima, è una pessima volatrice, e quindi più o meno dove depone le uova è in un raggio di massimo 100 metri. Lo secondo, questo tutte le zanzare, ma la zanzara tigre è più piccola e anche le larve sono un po' più piccole. E è commesso l'errore che va a deporre le uova in qualunque pozzetta d'acqua. Sì, le basta una goccia. Sì, bastano anche il sottovaso. E però queste qua non hanno un apparato per respirare come i pesci. Quindi devono stare alla superficie e respirano. E questo è un errore grave, perché basta semplicemente mettere una goccia di saponina vegetale che annegano. Non riescono più a stare a galla. No, perché ci stanno per tensione superficiale, come... E questo è un altro errore. L'altro errore è che respirano e ovviamente hanno i loro bisogni fisiologici e hanno l'alito cattivo, nel senso che hanno un alito riconoscibile e io le vado a cercare. Ma con che cosa le va a cercare? Con la sanguisuga, che ha dei sensi estremamente limitati, ma ha dei sensi legati alla propriocezione, cioè una specie di vermotto, e ha dei pelucchi, chiamiamoli, che sentono un flusso d'aria. E poi ha due sensori chimici, e lo scopo non ha un sistema nervoso centrale, proprio non ne ha bisogno. Questa va, è tratta dall'odore e lascia una scia dietro, e non lavora da solo, lavorano in gruppo. Lasciando la scia, questa scia lei non potrà ripercorrere lo stesso, va a caso per un momento, seguendo questa traccia, quando la perde va avanti lo stesso. Questa scia che lascia è una barriera sia per se stessa, per non girare mille volte, sia per gli altri soci. Cioè, gli altri soci, intendo, questi si chiamano robotica swarm, cioè di gruppo, come le formiche, che si muovono con feromoni e piccoli segnali tattili. E quindi gira, eccetera. Poi quando arriva lì, uno spruzzino di saponina e tanti saluti. Alcune di queste non troveranno niente, altre sì. Però sono completamente biodegradabili, e l'altro concetto è che devono campare poco, se no non riesco a farle autonome. Non riesce a farle autonome se campano troppo. È anche la fonte di energia. Dirò di più, ora questo è un particolare, l'attuatore, che vuol dire quello che fa da motore, è fatto con semi di quinoa, oppure, oppure invece che quinoa può essere il miglio, per cui quando si dissolve... non ha elettronica dentro, ha sistemi cosiddetti ionici, questa è una cosa molto tecnica, però non c'è niente del genere. Ma il progetto che ora presenteremo a aprile, l'ho già presentato all'IIT in una conferenza, ma presenteremo per un call della comunità europea, ma un pezzo di progetto, perché nessuno finanzierebbe un progetto così. E quando lei parla di sistemi, appunto, che non sono meccanici, non hanno bisogno di energia elettrica, non hanno... di energia elettrica, però come la prendo? Se devo fare un robot autonomo, non posso mica mettergli le pile e poi gliele cambiano. Intendevo questo. Lo sbatto lì e quello comincia per conto suo a fare così. Estraggono energia elettrica dall'ambiente. Estraggono energia chimica, che essendo ioni, particelle cariche, diventa poi elettrica, e lì il sistema che stiamo vedendo è quello di amplificazione, come quello che hanno i pesci elettrici, tipo le anguille elettriche, che partono da tensioni molto basse e poi arrivano a kilovolt, però non ci sono correnti, sono molto basse. E quindi quello che stiamo vedendo è estrarre energia elettrica fra acqua salata e acqua dolce. No, forse è meglio sottolineare che questa può essere tranquillamente una cosa che ha un grosso interesse dal punto di vista della ricerca, però lei sta pensando anche a un'applicazione che invece potrebbe risolvere un grossissimo problema. Ma ci deve essere un senso in questo. La tecnologia fine a se stesso, a che serve? E allora dico, ma se devo fare qualcosa, ma mi farai venire in mente di risolvere, non dico risolvere, affrontare un problema serio. Il problema serio è che oltre 1 milione di persone all'anno muoiono. Non sono per le nostre zanzare che ci pungono, il problema è ben più grave. Il problema è soprattutto, il problema è il terzo mondo, chiamiamolo così. Abbiamo chiuso con le sanguisughe, ti va? Ma sì. Per oggi è tutto. Per oggi è tutto. A sabato prossimo, ma quando volete ci trovate su Facebook e Twitter, Mebius Online e sul sito di Radio 24 con il nostro blog. Buona settimana a tutti e tutte.